Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Serviva una grande prestazione per battere la Lazio, abbiamo sofferto ma abbiamo stretto i denti e poi abbiamo vinto, credo, meritatamente, giocando anche bene. D'Ambrosio, traversone, Icardi, in ballo! Icardi, torna il gol, 2-0, 1-2 nell'Inter. Abbiamo fatto un salto di qualità sicuramente dopo i risultati che avevamo fatti, hai fatto, e siamo a 4 vittorie consecutive e questo è un gran passo in avanti da parte di tutti. Fuori Icardi! Mauro Icardi! Funziona lo schema, 3-0! A parer mio abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a far gol, nel calcio conta far gol, l'Inter è stata brava, ha sofferto, non è riuscita a non prendere gol, noi abbiamo preso gol. Beh, aspettiamo la rivincita degli interisti, 800 24 00 24 è il numero verde, la carica degli interisti, la loro rivincita. Modestamente ho sempre sostenuto che l'Inter fosse una buona squadra, poi sono stato spernacchiato, c'era chi voleva vendere tre quarti di questi brocchi, c'era chi diceva che Pioli era inadeguato. Ciccio Valenti cosa dice? Che noi abbiamo il presidente che si chiama Zhang, e allora sono felice pensando che il mio presidente si chiama Zhang e tutto torna le ruote intorno a Zhang, poi il resto è a scegliere. Buongiorno Carlo. Buongiorno Zang. Ciccio. Buongiorno, buon San Natale Zang. Buon okay, San Natale Zang, no, anche a lei. Che comunque è un progetto secondo me molto lungo. Io sono felice nel 2016 che sia arrivato questo personaggio con tutta la sua carica, le sue occhi feroci, l'ho sempre sostenuto. Questo era il nocciolo di tutto. Torino ci ha salvato molto probabilmente finanziariamente da anni di cancrena e Moratti ha fatto vincere quando c'era da vincere, ma poi ovviamente la gestione era difficile, è inutile continuare a cambiare allenatori, continuare a cambiare progetti, menate strane, l'importante era cambiare la società. E da quando c'è questo personaggio ci sono molte cose che girano. Tra l'altro, how do you say portaculo in English? Un po' sì. Cioè, sì, c'è anche questo, sì, ma sì, bisogna essere onesti. Tutte le volte che ci sta, tutte le volte facciamo bene. Sì, però quindi, tu non eri tra quelli che un mese fa volevano rottamare tutto? Volevo rottamare, ma non volevo mettere in discussione la proprietà. Quindi non era un problema di rottamare. Il problema era di riuscire a capire che sicuramente il progetto che era stato fatto era assolutamente fallimentare, ma ritengo che ancora ci sia molto da fare. Cioè, se noi ci presentiamo l'anno prossimo alla stagione con questi giocatori, è veramente imbarazzante, veramente imbarazzante. Mi sembra che non sia questa la strada, anche perché ieri nel primo tempo abbiamo rischiato, bisogna essere sinceri, di prendere due gol, poi dopo è stato strepitoso. Però ci sono delle cose da, ci sono delle strade da ripercorrere e la nostra garanzia io penso che sia il presidente. Sì, io penso anche che servisse una sorta di normalizzazione dell'Inter che è avvenuta con il tempo, con Pioli all'inizio criticato, con Pioli che ha avuto la pazienza anche di sistemare la squadra e sono arrivate le vittorie, sono arrivati i punti e adesso arriva un'ondata di emozione, perché era tanto tempo che l'Inter non andava bene così, no? Sì, no, beh, certo, sono vittorie consecutive che non arrivavano da tanto tempo. È anche vero che ci sono dei progetti da portare avanti. Se veramente stiamo al proclama che ha fatto Zhang, e ripeto Zhang, dove la volontà è quella di portare l'Inter di Zhang all'interno tra le squadre più forti del mondo, ovviamente non bisogna fermarsi. E la cosa bella di questa nuova proprietà è che quando vincono rilanciano e non quando vincono si pentono e vengono, come qualcuno ha fatto in passato, poco dove magari subentrava quella forma di meccanismo di sufficienza, no? Cioè, oppure anche di risparmiare, di ho vinto, adesso smantello. No, questo vuol vincere e vuole andare bene, quindi di fronte a un 3-0 non c'è più, ah che bello, siamo a posto così, il mercato di gennaio non lo tocchiamo. No, 3-0, per lui, esatto. No, lui, però tu mi insegni che per fare il progetto di una casa ci vuole un architetto, ci vuole un disegno, ci vuole anche pazienza, perché i muratori non te la costruiscono da un Carletto, giorno all'altro. Carletto, mi permetti, ci vogliono anche i soldi per fare la casa, perché sennò... Sì, sì, ci vogliono anche i soldi per fare la casa, avanti, se sì. E tu mi presti un pezzo di camino, l'altro mi presta la tazza del bagno, l'altro mi presta il lavandino e l'altro mi dà la rete... della nonna per fare il letto. Scusami, ti stai riferendo all'ex presidente? No, io sto dicendo soltanto che se c'è veramente la volontà da parte di Zhang di procedere e di crescere, secondo me c'è la grande possibilità di farlo, e questo rilancia. Poi, come tutte le cose, non puoi pensare di continuare, cioè, tre allenatori e poi dopo la struttura societaria rimane la stessa. Adesso abbiamo capito perfettamente che determinati quadri dirigenziali cambieranno in maniera notevole, e questo nel momento in cui si congela un contratto, il rinnovo di un contratto, esempio con Ausilio, è evidente che probabilmente cambierà qualcosa, o comunque verrà verificato qualcosa. Insomma, non si può pensare tutte le volte che arrivano dei giocatori che paghi 40, che paghi 30 e li devi svendere, perché questo è un errore. Cioè, sì, no, certo. Carletto, sì, ma non è. Non possiamo buttare la croce addosso a Pier Ausilio. No, c'è anche chi c'è stato prima di lui, neanche a Mancini. Sono stati fatti degli errori. La psicopatia calcistica e interista in particolare porta a considerare sempre che ci siano croce addosso, o disintegrazioni o problemi. No, secondo me è un concetto proprio di progetto, cioè dal ferramenta all'idraulico al mio amico Alessandro, a cui ho svuotato la cantina oggi, cioè, per cui di salumi, non di acqua. Ok, quindi c'è qualsiasi cosa, se il salame è buono io torno, mangio e prendo altro, no? Cioè, sì. ma in tutte le cose succede così, come l'idraulico, per carità. Cioè, come Carletto quando conduce tutti i convocati, se andate bene continuate ad andare avanti, se non sbaglio avete anche triplicato la vostra presenza in radio, e quindi qui mi sembra normale, è normale che Zhang voglia vederci chiaro. Ciccio, ti ringrazio, guarda, ti avverto che subito dopo il traffico ti abbraccio forte, ti auguro buon Natale, ci metto il tempo che serve. Poi voglio analizzare anche da un punto di vista, insomma, tecnico, tattico, fisico, di cuore, di gambe, di testa, cosa è cambiato nell'Inter, perché fatalmente qualcosa è cambiato. Non possiamo dire che queste vittorie abbiano aggiustato tutto, perché non è vero, però possiamo dire che il vento è diverso, ed è questo che voglio scoprire subito dopo il traffico. Ciao Ciccio. Grazie. Tutti convocati. Tutti convocati. Credo che questa sia la base sulla quale poi cercare di lavorare meglio, ancora di più in qualità, perché anche stasera abbiamo commesso degli errori, anche stasera abbiamo sviluppato delle situazioni che potevano essere più lucide, più attente, però la squadra ci sta mettendo tanta voglia, tanta convinzione, tanta passione, e credo che questo sia veramente importante. Era la prova del 9, quello sicuramente, perché la Lazio aveva perso solamente con le tre squadre che sono sopra, con la Juve, con la Roma e col Milan. Allora, questo l'avete riconosciuto, era Stefano Pioli dopo la partita di ieri. C'è un ascoltatore che mi scrive via WhatsApp: finalmente ho visto il presidente dell'Inter, Zhang, come ricordava Ciccio Valenti, esultare per un gol. Era da Moratti che non succedeva. Però io voglio parlare dell'Inter, ma anche del campionato e di una classifica che si è normalizzata prima di Natale, dopo un sacco di strilli, di caccia alle streghe, di attenti al lupo. C'è la Juventus che sta sopra tutti, ci sono il Napoli e la Roma lì sotto, l'Inter che sta rientrando, il Milan che sta facendo un miracolo. Questo secondo me è il riassunto di quanto abbiamo visto fin qui, dall'inizio della stagione a Natale. Ma voglio parlarne con uno studioso del calcio come Gigi Cagni. Ciao mister. Ciao, buona giornata a tutti. Ascolta, Pioli ha cambiato più la testa, il fisico, il cuore o la tattica dell'Inter? Ma allora, se andiamo su questo discorso, su tutto, perché lì c'era bisogno di tutto, voglio aprire una piccola parentesi velocemente su quanto ha detto poi Stefano in intervista noi allenatori dobbiamo smetterla di dire certe cose, mi è piaciuto il cuore, l'anima, la passione, ma cioè, non dobbiamo più dire queste cose. Se uno non ha la passione, non ha l'anima, non ha il cuore, è meglio che non faccia questo mestiere. Bisogna smetterla di proteggere questi signori da queste cose, devono fare i professionisti, e quindi noi per primo dobbiamo essere quelli che non parlano più di questo. Queste cose le devono avere, poi tutto il resto ce lo mettiamo noi, che ha preparazione fisica, tecnico, tattica e tutto quello che vuoi, e la bravura di mettere la squadra in campo. Però Gigi, sai benissimo come i giocatori dell'Inter sono stati accusati anche dalla curva. Io non do molta retta a quei signori che stanno seduti lì e che mettono gli striscioni, però questa squadra era stata accusata di fare flanella. La squadra è stata accusata giustamente perché hanno cambiato 4 allenatori, e non può essere sempre colpa dell'allenatore se qualcosa non va, e quindi è colpa dei giocatori. Quando tu hai cambiato la prima volta l'allenatore, poi i giocatori non hanno più scuse, non c'è storia, quindi loro devono avere delle responsabilità. È quello che voglio accentuare, sottolineare, volevo dire, perché è ora di finirla di dare sempre scusante a questi signori che giocano a calcio e fanno questo mestiere, passione, cose, anche il fatto di fare i professionisti e di conoscere cosa bisogna fare per fare i professionisti. Poi, adesso parlo del discorso che tu mi hai chiesto, Stefano è un allenatore esperto di tutte le categorie, che non è una cosa da poco, è esperto di uomini, è una brava persona soprattutto, e quindi piano piano sta mettendo la squadra con dei piccoli equilibri, normale, tutto normale, insomma. Basta che uno faccia le cose che conosce e dare un minimo di equilibrio a una squadra, l'Inter qualitativamente, singolarmente, è una squadra più forte può essere più forte del Napoli, della Roma, non so, della Juventus non è sicuro. No, però anche su questo voglio aprire una parentesi, però tu mi insegni che tutto questo arriva dalla società, tu mi insegni benissimo, quando parli di questi signori, riferito ai giocatori, sai perfettamente che quando c'è un allenatore in discussione e una società che gli mette alle spalle un muro di carta velina, questi signori sono i primi a scappare dalla barca. Perfetto. Sbaglio o no? Sono d'accordissimo, se non è una società forte non puoi far niente, però siccome io ho fatto calcio da 50 anni, sì, è capitato di avere società, diciamo, non che siano, che fossero molto molto molto, ma lì, caro mio, prima tu fai il professionista e fai quello che devi fare, che il pubblico non deve dirti lazzarone. Tu vai in campo, spacchi tra virgolette tutto quello che vedi tu all'avversario, giocando male, ma quello lo devi fare. D'accordo? Perché se no diventa troppo facile sempre dare colpa ad altri quando sul campo vanno i giocatori. Questa cosa, secondo il mio punto di vista, bisogna cominciare a cambiarla, perché questi signori hanno sempre la scusante, sempre, non hanno mai colpa. No, certo, è quello che sto dicendo anch'io, ma sono i primi, sentono puzza di bruciato, a dire: ah beh, la colpa è di quel signore che sta seduto in panchina e io mi tiro indietro. Perché questa storia l'abbiamo vista, tu l'hai vista, l'hai provata sulla tua pelle, e l'abbiamo vista, visto che non siamo più bambini, abbiamo assistito a questo tipo di dinamiche, tu sulla tua pelle, ripeto, io da questa sedia, da questo microfono, per troppe volte. Sì, ma il fatto è che quando capitano queste cose, comunque sei tu che vai in campo, è quello che voglio cercare di... Non vorrei essere interpretato male. Allora, se hai una società forte, che ha un minimo di organizzazione, che ha un obiettivo, che crea qualche cosa per arrivare a questo, in modo razionale fai dei risultati. Se non hai quello, è chiaro che è più difficile. D'accordo? Detto questo, se tu non hai una società forte, va bene? Non è detto che una squadra deve saltare per aria. Guarda, l'esempio è stato la sconfitta della Juventus a Genova. Sì. D'accordo? Certo. Secondo te, cos'è successo nello spogliatoio della Juventus dopo quella sconfitta? Ma secondo te cos'è successo nello spogliatoio della Juventus dopo la sconfitta dell'anno scorso a Reggio Emilia? E ti dico quello che è successo, che probabilmente, perché sono cose che ho fatto io, ho chiesto all'allenatore, da capitano, di poter parlare alla squadra, mi sono chiuso dentro uno spogliatoio e ho detto quello che dovevo dire. Questo è successo. Quindi avendo una società forte, chiaramente, avendo un allenatore intelligente, avendo una situazione particolare, però lo puoi fare questo. Una cosa che, ecco perché ribadisco il concetto che il giocatore non può togliersi sempre, ed è sempre la stessa cosa. Io dove ho giocato, io non ho giocato a grandissimi livelli, però a me mi potevano criticare solo tatticamente e tecnicamente che sbagliavo, certo, qualche cosa. Certo. Ma certo, sotto l'aspetto del comportamento in campo, atleticamente e mentalmente, mai. Quando tu hai fatto questo, ricordati, guarda che ero passata, non c'è tifoso che ti critichi, non esiste. Quando tu ti fai vedere l'attaccamento alla maglia, è vero che tu muori sul campo, puoi sbagliare, puoi perdere, ti fischiano perché i risultati non li fai, ma tu come persona non vieni mai giudicato male, mai. Come mai Medel non gli dice mai niente a nessuno? No, ma a me hanno sempre insegnato che l'errore tattico, l'errore tecnico è perdonabile, ci sono altre cose che non lo sono. Voglio chiederti un'altra cosa, invece, sempre tecnica, tattica, come vuoi tu. Sembrava una squadra, io questo lo dico dall'inizio dell'anno, l'Inter è una squadra che dal punto di vista dei giocatori, della rosa, mi piace, ha delle lacune e sappiamo perfettamente quali sono quasi croniche. Gli esterni di difesa bassi, ma queste cose me le spieghi poi tu. Mi è sembrata sempre una squadra però molto difficile da mettere insieme, cioè come avere un mosaico con i tasselli d'oro e non riuscire a comporre una figura. Allora ti dico una cosa che mi ha detto mio figlio guardando una partita dell'Inter qualche mese fa, adesso non mi ricordo, una partita che avevamo guardato insieme, fa: papà, l'Inter mi sembra quando andavamo all'oratorio, che facevi le squadre, perché quelli che c'erano andavi sul campo e giocavi. Dava questa impressione, con giocatori bravi. Quindi lì è un discorso come è stata costruita. Il problema è nato dall'inizio, perché Mancini, che ha le sue colpe, perché le ha, non c'è storia. Dopo lui aveva tutte le ragioni del mondo. Ma lui, quando sono andati in ritiro, sono andati anche in America, si parlava solo di Mancini, della squadra no. E lui ha preso giocatori perché doveva spendere, doveva fare. Ma siccome lui era arrabbiato, non ha avuto, secondo il mio punto di vista, un equilibrio nella scelta. Perfetto. Sceglieva quelli forti. Perfetto. E poi succede che quelli forti non è che fai una squadra con quelli forti. Se non hai un principio tecnico-tattico e un equilibrio tecnico-tattico in Italia, perché siamo in Italia. E in Italia, che è un paese dove noi possiamo insegnare tattica ovunque, puoi tatticamente perdere contro chiunque, anche contro il Pescara, o fare delle figuracce, perché magari è messo meglio in campo con giocatori più scarsi. Sì. Beh, Gigi, voglio chiederti ancora una cosa, che è questa. Abbiamo sottolineato le responsabilità di Mancini. Voglio allargare il discorso, ma è, ripeto, solo una mia impressione. Voglio conoscere la tua versione. Quando un allenatore, mi riferisco ad esempio a Paolo Sosa, rompe con la società, quando un allenatore come Mancini rompe con una società, questo accade a giugno, per Paolo Sosa è successo un anno fa, diventa difficile e secondo me diventa quasi un vizio capitale lavorare con un allenatore che è stato esautorato dalla società per tutti i discorsi che stiamo facendo. Perfetto, è così, tu entri nello spogliatoio, non sei più credibile. La cosa più importante è entrare in uno spogliatoio, è la stima che devi avere i giocatori, assolutamente, e loro fanno in fretta, perché oggi, a differenza di prima, tu devi calcolare, perché è così, il sistema è questo, non è che hanno colpa i giocatori, però è così, i giocatori sono un'industria a sé, ognuno di loro, l'attaccamento, la maglia, tutte queste cose, non ci sono più e non ci saranno più. Ma perché il sistema che è così, non hanno colpa loro. Adesso io vivo in Liguria e il discorso Pavoletti, no? Pavoletti qua, adesso i tifosi, molti, la maggior parte, contro, perché adesso va al Napoli. Sì. Ma è normale, ma è giusto così, perché sono i tifosi che hanno voluto questo. Quindici anni fa, quando ti chiedevano di fare la squadra, di tirar fuori i soldi e tutte queste cose. Allora, società, se ti danno 20 milioni per un giocatore, una società come il Genoa, come fa a dire no? No, ma è chiaro. Non può dire no, quindi non puoi poi arrabbiarti col giocatore che prende il doppio dell'ingaggio, è tutto diverso. Ma vai a giocare la Champions e tutto il resto. Come fai? Una volta, 20 anni fa, 30 anni fa, quando giocavo io, no, potevano incazzarsi, perché c'era la mentalità dell'attaccamento alla maglia. Ma sì, se uno baciava la maglia, Gigi, perché la baciava veramente. Gigi, sì, ma queste cose sappiamo che non esistono più, ma è inutile. E quindi anche il tifoso deve capirlo, perché poi ti ripeto, la colpa è del tifoso, La colpa è del tifoso all'inizio di questo, di tutto questo sistema, perché il tifoso vuole i risultati. E quindi i risultati, le società economicamente adesso avendo dei problemi fanno quello che per rimanere in piedi, perché se no fai la fine del Parma, fai la fine di tante squadre che sono sparite. Senti, guardando le squadre, poi ti saluto davvero, guardando le squadre, quale allenatore in Serie A ha la stima dei suoi giocatori? Completa. Io penso alla maggior parte. Vabbè, Allegri sicuro, ma lì vabbè, mi diventa facile. Ma io mi diventa facile perché hai una società che non ti mette la carta velina alle spalle, ma ti fa un muro di granito. Scusami, però lui ha dimostrato sul campo di avere la personalità di gestire dei giocatori. Assolutamente, sono il primo a dirlo. Ma ce ne sono, ma anche Juric del Genoa, poi adesso Spalletti ha qualche problema, ma perché a Roma non è facile gestire i giocatori, questo è. Io lo capisco. E Sarri? Sarri ha, secondo me, un piccolo problema con il suo presidente. Però Sarri è stimato dai suoi giocatori, lo leggi tutti i giorni, ma poi lo vedi sul campo, non si vede subito, ma la maggior parte, dico, adesso l'Atalanta, adesso, anche se ha avuto dei problemi prima, ma tutte te le posso dire, perché i giocatori stimano anche Oddo, secondo me, a Pescara. Assolutamente. Però, in questo momento la difficoltà esiste, che anche Otto qualcosa dovrà cambiare, perché non puoi perdere continuamente, devi cambiare tu qualcosa. Beh, ma sicuro? Sai, lui ha scelto una strada, voglio arrivare alla salvezza attraverso giocando bene continuando. Questo non lo accetto, come non accetto l'errore di... non accetto, lo accetto quello di Juric che ha fatto col Palermo, lo accetto perché è giovane, ma devi imparare da queste cose, perché se io sto vincendo 3-1, a me non me ne frega un cavolo dello spettacolo. Io finisco 3-1 e se poi faccio 3-3, perché sono stato calciatore e so che ci sono delle partite che non c'è storia, lo capisci, puoi tirare 20 volte in mare, allora tengo il 3-3 e questo lo capirà col tempo, che la prossima volta è qualcosa di diverso, sicuro. È giovane, quindi è giusto che sbagli in questo senso. Grazie Gigi, è sempre grazie un piacere. È sempre ciao, un piacere parlare con te. Buon ciao. Natale. Ciao Gigi Cagni. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, vale per SMS e WhatsApp. A dopo. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Qualche volta vi confesso che mi viene voglia di arrendermi. Come quando leggo un messaggio come questo. Ma è possibile sentire Cagni definire l'Inter una squadra da oratorio? Ma chi è Cagni? Siete solo capaci di criticare la nostra squadra, sempre comunque buffoni tutti quanti voi. Roberto da Rimini. Allora, se ascoltiamo le parole, i discorsi, i dialoghi, i ragionamenti, ci scherziamo sopra, ci giochiamo sopra, come è giusto che sia anche nello sport, bene, altrimenti se ognuno sente quello che vuole, lo interpreta come vuole. Gigi Cagni ha detto che suo figlio ha visto giocare l'Inter un mese e mezzo fa in una partita che non so quale fosse, e ha detto: sembrava quando si andava a giocare all'oratorio, pari e dispari, e si facevano due squadre. L'Inter non era semplicemente una squadra proponibile e organizzata. Questo abbiamo detto. Abbiamo anche detto che l'Inter ha della stoffa, per ricordare le parole di qualcuno che conoscete bene, della stoffa che un buon sarto italiano sta trasformando in un vestito che secondo me può serenamente valere l'Europa. Enzo dalla provincia di Lucca, poi stiamo criticando, va bene. Enzo, buongiorno. Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Senti, io sono un appassionato dell'Olimpia Basket Milano da una vita. Poi parliamo anche di questo. Io chiamo all'indomani della disfatta contro il Panathinaikos, perché qui effettivamente le cose che si prevedevano al momento della costruzione della squadra si stanno verificando tutte una a una, quantomeno in campo europeo. La cosa che però fa veramente preoccupare è che qui ogni anno eliminano un elemento giovane di prospettiva, che poi, come è successo per Melli al Bamberg, finirà per ottenere degli ottimi risultati fuori dall'Olimpia, e noi ci ritroveremo con una squadra sempre più debole. Quest'anno il campionato lo vinceremo perché siamo nettamente superiori, però in prospettiva qui stanno distruggendo tutto. Distruggendo non mi pare. Mi pare che degli errori siano stati fatti, e mi pare anche il caso di discutere a proposito del manico dell'Olimpia, perché va bene Melli, va bene Gentile che si è chiamato fuori il giorno dello scudetto, e va un po' il discorso che facevo prima a proposito degli allenatori. Cioè, se non hai fiducia in un progetto, non hai fiducia in un allenatore, allora diventa difficile poi rimanere lì. Io credo che all'Olimpia, dopo l'ennesima figuraccia di ieri sera, credo che l'Olimpia sia una squadra, ma ripeto, poi ne parliamo, sia una squadra che sta sotto le top d'Europa dal punto di vista dell'organico. Credo che dopo tante sfuriate, dopo tante accuse pubbliche o private, sia il caso, anche come normalmente accade, di mettere in discussione chi questa squadra la guida. Io saluto e ringrazio Antonio Di Gennaro, che non so quanto sia appassionato di basket. Questo non lo Buongiorno so. Buongiorno a tutti. Ho seguito, mi ricordo quando giocavo a Verona, andai a vedere una partita, lo seguivo in televisione. Ho assistito a una partita dal vivo, mi ricordo, a Brescia, perché era vicino a Verona, e mi impressionò. Parlavo proprio l'altra sera allo Juventus Stadium con il mio collega Beppe Bergomi, che lui è tifosissimo, vede molto questo, soprattutto l'Olimpia a Milano, e mi ha dato veramente grande, mi è piaciuto molto, grande energia, grande forza, perché un conto della televisione veramente non ti dà l'impressione di come possano andare forte. Da lui ti parlo degli anni 83-84, sono passati. Poi ovviamente tramite la televisione, ma non sono un grandissimo intenditore, devo dire la verità, però mi piace. Dove poi anche il calcio ha preso un po' da alcuni schemi dei vari, diciamo, un po' di mutualità c'è stata. Allora, questa sera, se non ricordo male, commenterai per Mediaset la Roma, giusto? Roma-Chievo. Allora, sentiamo Spalletti e poi parliamo del momento della Roma, e mi dirai se la partita con il Chievo è così banale oppure no. Spalletti. La squadra deve essere attenta sulle verticalizzazioni improvvise, deve essere brava a dar seguito qualche volta in velocità alle azioni, perché se fai un possesso palla di poca qualità, loro ti saltano addosso, portano molti giocatori intorno alla palla e diventerà poi difficile uscire da lì. Però in quei 5 minuti che non bisogna buttare all'aria tutto, c'è racchiuso anche quella che deve essere l'imposizione di vincere questa partita. Sarà banale la partita con il Chievo per la Roma dopo gli schiaffi, dopo lo schiaffo preso a Torino? A volte non riesco a capire l'ultima valutazione che ha fatto Spalletti. In quei 5 minuti capire in posizione della partita, non ho capito bene, credo che sono delle situazioni che a volte mi mandano un po' così. Vabbè, a parte questo, ha centrato in piena, perché il Chievo è una squadra forte, perché nonostante sia come anagrafe la squadra più anziana del campionato, mi sembra viaggiano sui 31 anni di media, però è una squadra molto fisica, una squadra anche di esperienza e anche di qualità, quindi che ha la seconda miglior difesa, è normale che poi insieme proprio alla Roma, solo che la Roma ha fatto 36 gol, il Chievo 18, quindi lì si vede un po' la differenza di qualità nei giocatori, però difende bene e riparte anche con grande qualità, perché gioca con tre centrocampisti, di cui però oggi non dovrebbe giocare Castro, però c'è De Guzman che attacca molto bene, diciamo, e accompagna l'azione, c'è Birsa che è un trequartista che fa molto bene le due fasi, i due attaccanti sempre in grande spolvero, o Inglese o Pellissier, lo stesso Nigiorini pressano e si buttano in profondità, quindi è una partita difficile. La Roma è favorita e deve riprendersi dal capo di Torino, soprattutto di alcune scelte che sinceramente a Torino, almeno una, quella di Gerson, non ha convinto nessuno, ha perso un tempo e quindi poi con la Juve poteva anche rimediare, ma non ha avuto quella ferocia agonistica che serve stasera, secondo me. Ma sai cosa, Antonio? La Roma è al secondo schiaffone stagionale. Il primo quando è uscita dalla Champions League, il secondo era questo, era una partita carica di significato. Va bene, siamo a gennaio, va bene, giochi a Torino, allo Juventus Stadium, difficile, non vince nessuno, eccetera. Però diciamo che era la seconda prova del 9, le ha sbagliate tutte e due. Beh, quella di Champions è ancora peggio, secondo me, se andiamo a vedere, sicuramente poi all'inizio peggio, e poi peggio. Rappresentava anche un discorso di, anche economico, diciamola tutta, perché da lì poteva anche pianificare anche un certo tipo magari anche di orientamento per rafforzare l'organico, e questo non è successo ed è stato sicuramente il primo schiaffo pesante. Poi quello di Torino è una prova di maturità, e quindi torno alla scelta che ovviamente sì, mancava magari Salah, non era al massimo, però la scelta di Gerson, ha perso un tempo, ha perso proprio anche proprio la qualità che può esprimere lo schieramento di Spalletti nel 4-2-3-1, dove gli esterni devono e possono fare la differenza, oltre ovviamente a Nainggolan, che è il giocatore, diciamo, imprescindibile questo momento, e poi Dzeko, che a parte l'ultima partita che ha avuto pochi spunti, perché poi torniamo alla Juve, a questa ferocia, a questa determinazione, a questa fame che può sembrare, diciamo così, banale, ma è una squadra che veramente non perde mai queste caratteristiche, che poi gli danno la consapevolezza, anche non giocando un grandissimo calcio, di portare a casa il risultato. Ecco, la famosa mentalità, che per certi versi vado anche a rapportarmi a quello che ha detto Sarri del Napoli, ha fatto un'ora di un calcio meraviglioso col Torino, poi una squadra che fa 5 gol però ne prende 3, vuol dire che è ancora la mentalità giusta per poter arrivare a vincere vuol dire proprio la massima, cioè il campionato, manca ancora quello step per acquisire sì, certo. Antonio, ti chiedo un secondo di pazienza per il traffico, poi voglio farti una domanda sulla Fiorentina prima di salutarti. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque torniamo, 800240024 e siete sempre tutti convocati, così come Fabio e Piero, con cui parlerò tra un istante. Però prima volevo chiudere il discorso con Antonio Di Gennaro sulla Fiorentina, ascoltando Paolo Sosa. Credo che la Fiorentina deve cercare di essere se stessa, sempre. E lavoriamo per essere se stessa, e abbiamo dimostrato che riusciamo a competere anche con le squadre che hanno interprete con molta qualità tecnica. Parole, cantava una canzone che conosciamo bene, Antonio. La mia sensazione, l'ho detto anche prima a Gigi Cagni, è che questo scollamento tra Paolo Sosa, la società e la squadra sia ormai evidente. Ambiente anche. Come? Anche i tifosi, certamente. Sì, questo scollamento mi sembra sia partito un po' dall'anno scorso, questo famoso mal di pancia che nel mercato di gennaio appunto scorso non è stato quello che si auspicava un po' tutti, e quindi in un momento particolare dell'annata, perché la Fiorentina stava facendo veramente un grandissimo campionato, giunta anche al primo posto. Poi non sono stati quei giocatori che potevano, diciamo, dare un qualcosa in più per arrivare alla fine, non dico magari vincere, però arrivare in Champions League, e è arrivata quinta fuori dalla Coppa Italia in casa con il Carpi, e in Europa League non si è espressa al massimo. Quindi e tutti dicevano un'annata buona, io sufficiente, perché i tre anni di Montella e con delle semifinali di Europa League e delle prestazioni importanti, un gioco sicuramente molto più continuo, non è stata secondo me un'annata buona. Quest'anno è partita con lo stesso diciamo così scetticismo, con lo, sentì tempo fa Sosa dire ho perso la voglia di sognare, sono diventato molto più realista, molto più concreto. Sì, poi c'è stato il caso Bernardeschi, poi sono passate tante cose in mezzo, ma brutalmente ci sono le condizioni per cambiare allenatore alla Fiorentina? Io non cambiare ora no, poi sai, nel calcio lo succede di tutto, stasera è una partita importante che può dare uno scossone positivo ma anche negativo, perché incontra la squadra più forte a livello di gioco, a livello di qualità, a livello di anche di testa e anche proprio psicofisico. Il Napoli sta facendo, è ritornato quello che insomma eravamo abituati a vedere sotto il profilo del gioco e sotto dei risultati. Poi questa scelta, questa intuizione, devo dire che non eravamo preparati, oppure non pensavamo che Mertens potesse sfruttare questa, diciamo, questa chance da finto 9, lei la sta facendo in maniera incredibile. Può aspettare Milik, può ovviamente anche aspettare Pavoletti, anche se serviranno, perché poi Champions, Coppa Italia, campionato, ci vogliono anche giocatori fisici in attacco. Però stasera può essere appunto una svolta in positivo, ma anche una svolta in negativo, perché la Fiorentina ottava non siamo più abituati da 5 anni a questa parte. È una situazione molto ibrida che non serve a nessuno, e stasera è la partita della maturità per tutti, anche come giocatori come Bernardeschi, che sta inserendo e credo che sia il giocatore più rappresentativo e anche in prospettiva, ma anche giocatori come Kalinic, Ilicic, che devono far vedere quello che serve alla Fiorentina. Loro sono, diciamo così, il tasso di qualità in più. Poi vabbè, Chiesa, che diciamo il prodotto del settore giovanile, che si sta inserendo molto bene, manca Borca da parecchio. Lì non ho capito se veramente sembrava un infortunio da poco. Non vorrei, è una mia supposizione, che magari troppo tempo, troppe partite Borca Valero, e quindi può pesare questo. Poi e finisco in difesa, che credo che fino a due domeniche fa era una buona difesa. Stasera dovrà giocare di reparto a livello di proprio anche dell'uno contro uno, perché loro davanti sono veramente difficili da marcare, perché non hanno punti di riferimento. Quando giocano in un certo modo sono devastanti. Antonio, grazie, buon lavoro. A voi, auguroni a tutti. Ciao, auguroni. Grazie ad Antonio Di Gennaro. Allora, Fabio e Piero, state lì, perché voglio offrirvi un'anticipazione del fuori tempo del Festival di Sanremo con un bravissimo cantante, poi vi dico chi è. E sto fermo tra le ore mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rovine. Tra le foglie soffia un vento molto dolore. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Premio a chi indovina chi è. Fabio. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno Fabio. Chi canta questa canzone dei Modà? Checco no. Lucas Castro, allora, giocatore del Chievo. Bravo, grande, però. Grande. C'è della qualità. C'è della qualità. Sì. C'è della qualità. Dica. Ma io volevo spendere due parole, tu hai definito Sarto Pioli, ma io volevo spendere due parole su tutti gli allenatori italiani, perché secondo me il centro federale di Coverciano rimane alla grande il numero uno, e quindi non abbiamo bisogno di importarli, ma secondo me il Made in Italy degli allenatori italiani va esportato. E questo, beh, ma mi sembra che secondo, mi sembra che accada, no? Il numero uno. Mi sembra che accada, cioè gli allenatori italiani in giro per il mondo ne abbiamo visti tanti e abbiamo visto tanti allenatori italiani ottenere grandi successi, quindi non c'è solo Conte, no? Secondo me non c'è solo Conte, ma per quello che sta facendo a prendere squadre che vengono da dannate da settimi, ottavi, decimi posti, ricostruire e tornare in vetta. Sì, c'è anche chi vince uno scudetto con l'Ester, tanto per dirne uno. Non sto dicendo Fabio Capello che vince lo scudetto con Real Madrid, non sto dicendo Carlo Ancelotti, di cui tra poco parleremo, che andrà a vincere, che ha vinto ovunque. Quindi mi sembra che il modello italiano, anzi, mai come in questo momento, sia di gran moda. Basta guardare gli allenatori italiani che ci sono nel campionato più importante, affascinante, per capire come il Made in Italy, insomma, sia piuttosto di moda. Non vedo molti dubbi a questo proposito, e non solo, ripeto, per quanto riguarda Antonio Conte. Grazie Fabio, buon Natale. Piero. Dottor Genta, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per la convocazione. Ma prego, ma grazie a lei. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Esatto, io vi ascolto prevalentemente tutti i giorni e sono intervenuto perché ho ascoltato con attenzione e con soddisfazione quello che ha detto Cagni, con lei che condivido in tutto e per tutto. Però c'è stato quel tal di Rimini che ha osservato, che ha detto, che ha parlato, chi è Cagni? Innanzitutto direbbe... No, ma Roberto, allora andiamo per la cronaca. Roberto poi ha riscritto, ringraziando per la risposta educata, tutte le scuse del mondo accettate, non intendevo offendere, mi ero risentito per le parole di Cagni, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo chiarito la situazione, quindi io direi la darei finita lì, no? La darei finita lì. Sì, però un po' di vergogna, non c'hanno la vergogna degli scudetti di cartone, allora ragionano con quel sistema lì, con quel modo lì che non è simpatico, ecco, tutto lì, basta, io non aggiungere altro, volevo puntualizzare che condividevo tutto quello che ha detto lei, che ha detto il signor Cagni, peraltro, tutte cose giustamente. Guardi Piero, è Natale, tanti auguri, ci sentiamo un'altra volta pure con gli scudetti di cartone. Noi invece torniamo subito dopo il giornale radio, 800 24 00 24, mi fate compagnia. Tutti convocati. Qualcuno sa da dove viene questo proiettile? Valerio Mastandrea racconta storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Chiama la sala operatoria, avvisali, ne abbiamo altri tre. E questo va in radiologia, questo va subito in sala. Dall'ospedale di emergency a Kabul. E la radio che gracchia per chiamare i Falcons, cioè noi. Per 16 ore. Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Il web documentario su emergency.it. Il radiodocumentario, lunedì 26 dicembre alle 16.30 su Radio 24. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Questo è il minuto di silenzio e poi seguirà l'applauso. Aspetta Alstenberg, anzi non lo aspetta, lo attacca e non è una grandissima scelta. Lam, lato corto dell'area di rigore, crossa Lewandowski e poi Thiago Alcantara la mette in porta, è il vantaggio del Bayern Monaco. Perde palla in Lipsia, Lewandowski uno contro due, ha visto dall'altra parte Thiago Alcantara che potrebbe sistemarsi il pallone per calciare, invece lo offre Xabi Alonso, indovina l'angolo, 2-0 per il Bayern Monaco. Fischia l'arbitro, parte Lewandowski e fa strike, 3-0 per il Bayern Monaco, 12 in campionato per RL9 Lewandowski e 3-0. Oggi abbiamo giocato bene, soprattutto la prima parte, con molta intensità, con molta qualità. È stata la miglior partita di questa prima parte della stagione. Vuol dire molto perché giocavamo contro una squadra difficile. Questo risultato, questa partita aumenta, diciamo, la nostra fiducia nelle prossime. Non c'è il sistema vincente o il sistema perdente, c'è l'interpretazione, e oggi i giocatori hanno interpretato molto bene sia la partita sia la posizione sul campo da tenere, soprattutto quando avevamo la palla. Non è stata una serata banale o normale ieri in Germania, per i motivi che ben conoscete, perché c'era sul fronte calcistico questa partitissima, questo confronto diretto tra il Bayern e i bibitari, come piace chiamarli al mio amico Leo Turrini. Il Bayern ha rimesso a posto le gerarchie. Riccardo Gentile, a Sky. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Beh, mi sembra che il Bayern con questa partita abbia voluto dare un segnale al campionato. Non scherzate con noi. Sì, beh, direi che era anche abbastanza prevedibile, nel senso che la partenza del Bayern ci aveva fatto, secondo me, pensare a un qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti con Guardiola. Guardiola è sempre partito molto bene, battendo record, vincendo per esempio nella scorsa stagione le prime 10 partite. Poi, per carità, il suo campionato l'ha sempre vinto con grande facilità, vai pagando nelle partite decisive in Champions League. Io credo che Ancelotti abbia lavorato da questo punto di vista proprio in prospettiva futura, cioè nella prospettiva di vivere una seconda parte di stagione in un certo modo, sì, molto più competitivo per quello che interessa veramente il Bayern, ovvero quantomeno la semifinale di Champions, perché il Guardiola si è sempre fermato in semifinale. E i primi frutti, secondo me, si vedono proprio da questa partita qui. Cioè, quando c'è, come hai giustamente detto tu, quando c'è stato da non scherzare più per quello che riguarda il campionato, il Bayern ha dimostrato la sua forza. Del resto affrontava comunque sempre una bella neopromossa, ma pur sempre una neopromossa. Sì, sì, sì, no, non c'è dubbio. Hai l'impressione che Ancelotti abbia un po', lo metto tra molte virgolette, ma scherzato con il campionato tedesco, ben sapendo che il Bayern è una corazzata praticamente inaffondabile da quelle parti? Ma credo di sì, credo che abbia fatto saggiamente, per quella della sua esperienza enorme di vittorie, di carriera, i suoi conti, cioè abbia previsto tutto, sempre detto non conta quello che succede oggi, conta far conti alla fine per quello che riguarda il campionato, ma è inevitabile, insomma, visto che lui tra l'altro con discreta facilità riesce a essere vincente in Champions League, e poi il maggiore interesse per lui sia quello di fare di più di Guardiola rispetto a quello che è stato fatto in Europa. Per adesso Guardiola ha i suoi 3 campionati e vinti, da questo punto di vista non possiamo dire nulla. Che vuoi dire? Però è chiaro, ieri sentivo Vidal dopo la partita, forse anche un po' esageratamente, ha parlato di squadra più forte del mondo che può vincere tutto in questa stagione. Adesso io non so se la squadra più forte del mondo, forse esagerato, il fatto che però possa essere una grande protagonista fino alla fine in Champions League, io insomma sono pronto a scommetterci, proprio per l'abilità di Ancelotti anche a gestire calciatori, situazioni, certo. E il campionato è ormai, voglio dire, un dettaglio da questo punto di vista. Certo. Non c'è squadra. Io pensavo a un Borussia Dortmund più competitivo, però anche lì vediamo una squadra che ha fatto grandissime cose in centro. Sì, intanto il Mönchengladbach ha cambiato allenatore, questa può essere una buona o una cattiva notizia per la Fiorentina, non lo so, lo scopriremo vivendo. Sei a Firenze, per stasera commenterai la partita più intrigante che c'è in questo turno infrasettimanale, e cioè Fiorentina-Napoli. Hai visto Pardo da quelle parti? Lo stiamo cercando. No, non ci siamo visti, non sapevo neanche che fosse qui. Arriverà, se non è lì arrivo. Ci incontreremo, insomma, anche perché non passa in occasione. Ascolta, come leggi questa partita, questa Fiorentina-Napoli? Ma molto bella. Chi rischia di più? Fiorentina senza dubbio, perché perdere la terza partita sarebbe complicato da assorbire prima di Natale. e il Napoli gioca meravigliosamente, la squadra più divertente della nostra Serie A, poi magari non vincerà neanche quest'anno, però continua a brillare secondo me con il calcio che propone. Mi faccio una domanda: con l'arrivo certo di Pavoletti e con Milik, che prima o poi recupererà, glielo auguriamo, è un grande giocatore, poi insomma scelte di Sarri, io non vorrei essere nei suoi panni, perché francamente togliere questi la banda Bassotti lì davanti, secondo me ci penserà bene, va Riccardo, fidati, ci penserà bene prima di togliere la banda Bassotti lì davanti. grazie Ricky, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Grazie Riccardo Gentile. Allora, io no, aspetta, prima di Mauro e Stefano voglio farvi sentire un Galliani che cosa ha detto oggi alla vigilia della finale di Supercoppa a Doha, perché insomma, se portiamo la Serie A a Doha, come vorrebbe Galliani, almeno per alcune partite, un po' lunga la trasferta, ragazzi. Il calcio italiano, anche se non è più il primo al mondo, è comunque una delle eccellenze dell'Italia, bisogna farsi conoscere. Quindi io addirittura sono per giocare magari anche qualche partita di campionato all'estero, l'NBA lo fa, voglio dire, le finali, eccetera. Noi questo calcio italiano dobbiamo farlo conoscere del mondo. Quando venderemo i prossimi diritti televisivi dovremo stare attenti a vendere magari più chiaro e meno criptato, mi spiace per chi lavora in criptato. Secondo voi ha ragione o ha torto? Cita il caso dell'NBA. L'NBA si è aperta al mondo, va a giocare partite di campionato ormai ovunque, va ad esplorare nuovi mercati. Secondo voi Galliani dice una eresia così grande, così grossa? Secondo me no. Mauro, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma sicuramente ha ragione Galliani. Da un certo punto di vista è meglio vendersi sempre da qualche parte. Dopo adesso è anche caldo lì, si sta bene, quindi. È un po' difficile da raggiungere, se uno vuole andare allo stadio è un po' complicato. No, però è il mondo che va così, quindi secondo me Galliani non dice un'eresia. Tutto il mondo, dalla Formula 1 che va a cercarsi mercati ovunque pur con enormi difficoltà, all'NBA, a tutti i grandi sport professionistici, vanno ad esplorare nuovi mercati, vanno a farsi conoscere. Non è solo una questione di diritti televisivi, è una questione di vendere un'eccellenza italiana. E qui è un'espressione che a me non piace, però non trovo che Galliani abbia torto. Dica Mauro. Niente, ci abbiamo ragione sicuramente. È un grande Made in Italy, il nostro torneo comunque rimane abbiamo la nazionale del mondo, abbiamo ancora quattro stellette se non sbaglio, e quindi sì. Come avete detto voi e gli allenatori e questo grande campionato, insomma, farebbe bene, perché c'è rimasto quello in Italia, ci hanno tolto tutto praticamente, almeno quello. Sì. Grazie Mauro, volevo dire qualcos'altro? Sì, niente, ritornando all'Inter, sì. Volevo chiedere una battuta, volevo dire, non so se l'attesa di Gabigol è essa stessa il piacere di aspettare Gabigol, tutto là. Come aspettare Babbo Natale, eh? Una cosa del genere. Un augurone a tutti. No, ma io, guardi, saluti, dico, a Pardo. Saluti a Pardo, sì, magari lo peschiamo domani, oggi è complicato. Quanto a Gabigol, io ripeto quella che è la mia impressione, mi sembra un giocatore di grande talento fisico e tecnico, però è un giocatore che ha bisogno di essere disciplinato, di capire come va il calcio da questa parte dell'oceano, e non sto facendo delle discriminazioni, è un giocatore molto giovane, però io ho visto anche un centravanti molto acerbo per quel poco che l'ho visto alle Olimpiadi, quindi secondo me la soluzione migliore sarebbe quella di aspettarlo magari presso un'altra squadra. È uno che ha bisogno di giocare, non credo sia così difficile trovare in Italia, perché quello sarebbe importante, una squadra che voglia fare affidamento su questo giocatore. Se no, cioè, ci può essere sempre il Nizza, dove Balotelli ha di nuovo avuto qualche problemino. Balotelli fighting, needs to be careful. Kicked out there, Mario Balotelli. What's the referee going to produce? It's red. Balotelli sent off here in Bordeaux. Well, on first viewing it looks slightly harsh, but The ball, no player got in front of him, and there was a slight kick out towards. Riassumo, fallo di reazione, Balotelli si è beccato il cartellino rosso. Credo sia l'attaccante più espulso della storia del calcio. Ma qui vado semplicemente a memoria, eh. Però ieri contro il Bordeaux c'è ricascato ed è stato di nuovo espulso. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per aver accettato la mia chiamata. Grazie a lei. Io chiamavo in relazione alla discussione precedente sulla, diciamo, la forza degli allenatori italiani all'estero, quindi l'esportazione delle nostre eccellenze all'estero. Volevo sottolineare un aspetto che io ho analizzato in profondità, soprattutto di Conte, che però poi è ripreso anche da altri allenatori come Pep Guardiola, che è la maniacale attenzione che Conte dà all'alimentazione dei giocatori e al regime, appunto, alimentare e di dieta, che sembra magari una banalità, ma in realtà, analizzandolo in profondità come ho cercato di farlo io, studiando un po', cercando testi, è un aspetto che incide in maniera fortissima, e forse non tutti gli allenatori, soprattutto in Italia, sono attenti a questi aspetti, mentre invece credo che faccia parte del bagaglio, diciamo, incommensurabile di un allenatore come Conte. Ma lei cosa ha scoperto su Conte, sull'alimentazione che propina ai suoi giocatori? Sì, diciamo, giusto per che, curiosità, cioè io sì, qualcosa so, ma sì, mi dica. Diciamo che l'alimentazione, il regime alimentare si basa su un profondo equilibrio tra i vari componenti, quindi proteine, carboidrati e grassi, ma soprattutto ha eliminato ciò che nell'immaginario collettivo, soprattutto dell'italiano, è il pan, diciamo, è il carburante per l'atleta, quindi la classica cofana di pasta piuttosto che un sacco di zuccheri e quant'altro, mentre invece Conte, che è profondo studioso, immagino si è anche contornato di persone competenti, ha eliminato completamente tutte queste credenze da tradizione italiana, e alla fine è oggettivo, le sue squadre vanno con una marcia in più. Basta guardare la Juventus del passato, guardiamo il Chelsea di questo periodo e eccetera, quindi questo poi è un aspetto essere un aspetto importante, ecco. Io ricordo che quando arrivò all'Atalanta vietò le patate e il parmigiano, poi non ricordo altro. Certamente questo può essere un aspetto importante, non credo sia l'aspetto determinante. Io lo ripeto per la milionesima volta, ciò che più mi ha sorpreso in questa esperienza di Conte al Chelsea è stata la facilità con cui è riuscito ad adattare una squadra che non era esattamente una squadra per lui. Basta pensare alla linea difensiva, Conte è riuscito ad adattare la squadra al suo modo di credere, e non era facile per questioni di lingue, per questioni di ambientamento, per questioni di attitudine dei giocatori. Certamente può centrare la dieta, ma non è questo l'aspetto che io credo sia più sorprendente di ciò che Conte sta facendo con il Chelsea. Buongiorno Fabrizio, come sta? Oh, sì, io sto benissimo, grazie della convocazione. Grazie. Posso commentare a modo mio le parole dell'ineffabile Galliani, sedicente dottor Galliani o geometra, che si dice che Dio si voglia. Lasciamo stare i titoli. I titoli di storia, lasciamo stare. Io premetto che sono abbonato al Milan dal 1990, dei mondiali d'Italia, sì. E ho visto la tavola della società Milan condotta da Galliani. Galliani parla di esportazione del prodotto, di vendita del calcio in Italia, quando è il primo artefice del decadimento del Milan di questi anni, del crollo del suo fatturato, della crisi dei risultati. Un minimo di dignità da questo punto di vista. È intollerabile sentir parlare questa persona che non si è mai accollata nessuna colpa, ma soltanto dei meriti marginali. No, ho capito, ma cioè, anzi non ho capito dove vuole arrivare, cioè il fatto che Galliani proponga di esportare il calcio italiano. Già, questo è paradossale, perché comunque snatura quella che potrebbe anche essere la tradizione del calcio stesso, quindi il calcio è anche una questione, sarò romantico da questo punto di vista, sarò attaccato dei valori. Anche in America sono romantici e sono tradizionalisti, però non si sono scandalizzati nel vedere qualche partita di regular season giocata a Londra o a Tokyo o a Pechino o presso questi mercati, così come io alla fine non riesco a scandalizzarmi per una finale di Supercoppa giocata a Doha. In fondo bisogna farsi vedere, conoscere ed eventualmente apprezzare. Io credo che il calcio italiano in questo momento abbia un grosso problema di appeal, e a me l'idea di Gagliani non sembra del tutto balzana, non mi dispiace più di tanto. Poi chi è tradizionalista può fare i conti che vuole. In ogni caso, l'idea di giocare qualche partita di campionato in giro per il mondo può essere anche un'idea innovativa. Può essere anche, mettiamola così, un'idea innovativa su cui si può riflettere. A proposito della Supercoppa che si giocherà a Doha, non ci sono solo le parole di Gagliani, ma ci sono anche, pronunciate da poco, le parole di Allegri e poi di Buffon. Sentiamo Allegri. Sappiamo dell'importanza della partita. Io credo che il Milan, questo ritardo del giorno, li ha un po' deresponsabilizzati, e quindi dall'altra parte però troveremo una squadra molto arrabbiata, vogliosa di portare a casa per loro un trofeo importante, così che è per noi. È una partita senza altri appelli, è un qualcosa che fa sì che le motivazioni siano e si mantengano molto, molto alte. Poi secondariamente con la Supercoppa italiana ho un buon feeling, e è proprio perché ho un buon feeling torno spesso a ricordare l'unica che ho perso qua col Napoli che mi brucia ancora. Credo sarà una Juventus molto arrabbiata quella che vedremo domani con il Milan, non solo per quella partita persa a San Siro, ma anche perché è una squadra cannibale che si nutre di trofei e non credo voglia perdere questa finale di Supercoppa dall'altra parte del mondo. Stamattina ho provato a farmi spiegare da Giorgio De Luca questa storia degli aerei, che mi ha fatto francamente un po' sorridere, perché non credo ci sia un complotto internazionale degli aeroporti per far arrivare il Milan un giorno più tardi. Credo che in fondo cambi poco. Credo che in fondo domani vedremo una partita certamente interessante, e potrebbe anche essere addirittura più importante per il Milan che non per la Juventus, perché il Milan potrebbe tornare ad alzare un trofeo dopo molto tempo, e non ci sono molti altri trofei cui questo Milan possa ambire, almeno in questa stagione. Mi sembra che possa ambire a pochi trofei anche, se non il campionato italiano, che insomma, per il quale vale un po' il discorso fatto per il campionato tedesco prima. Non credo possa ambire a grandi trofei internazionali nemmeno l'Armani, che ieri è stata schiaffeggiata e sbeffeggiata a domicilio dal Panathinaikos. Repesa, molto arrabbiato come gli capita spesso in questo periodo, ha parlato così. Non voglio dire una vergogna, una parola molto dura, molto forte, ma onestamente sono stradeluso, no perché abbiamo perso, sono stradeluso perché come abbiamo fatto gli ultimi due giorni, come abbiamo fatto la preparazione per la partita e come abbiamo giocato. Si è visto subito che siamo senza concentrazione, senza attenzione. La nostra vita ci sta a vincere e perdere, questa è la nostra vita, ma come andare avanti dopo una sconfitta fatta a questo modo è onestamente da parlare. Noi abbiamo sentito tanti fischi che onestamente meritavamo. È normale che il pubblico che paga biglietti reagisce così. Beh, a questo punto io non dico che si è creata una situazione simile a quella dell'Inter, perché Repesa è un allenatore abituato al nostro campionato, conosce perfettamente la nostra lingua, la nostra realtà, ha allenato qui per molti anni, ha vinto, ha perso. Però mi sembra altrettanto evidente che ci sia qualcosa che non funziona nella costruzione di questa squadra, perché c'è ad esempio Radulica che è stato pagato una montagna di soldi e che sta deludendo, Calniesis che è un eccellente playmaker che non sta dando quello che deve dare. Può essere che dopo il caso Gentile sia anche legittimo quantomeno discutere la posizione del manico, cioè di Jasmine Repesa, ma soltanto per capire se ha ancora il polso della situazione o se ha perso il polso della situazione su questa squadra, che, ripeto, secondo me vale a livello di classifica europea, dovrebbe stare dietro le 4-5 grandi, e invece è lì sul fondo. Ermanno, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo fare un intervento sulle frasi di Galliani, del dottor Galliani, che ha fatto questa mattina relativamente all'esportare le partite del calcio italiano. Sono milanista, quindi apprezzo tutto quello che ha fatto in passato per il Milan. Però la domanda che mi faccio, siccome i ragionamenti di Galliani ovviamente sono sempre finalizzati al discorso economico, non è che è una strada sbagliata? Cioè, il campionato che è venduto nel miglior modo al mondo, quello inglese, mi risulta che un derby Manchester City, Manchester United non lo fanno a Roma, a Pechino o a Parigi. Sì, anche, perché non, anche perché non ne hanno bisogno, perché è il campionato che dal punto di vista dei diritti televisivi internazionali incassa di più al mondo. Noi da quel punto di vista siamo un po' in crisi per quanto riguarda l'appeal del nostro calcio. Quindi io non dico che abbia bisogno Galliani, dico solo che Galliani potrebbe non aver detto una fregnaccia. Magari proviamo a parlarne domani, tanto siamo qui. 800240024 vale anche domani, così come vale la presenza di Giorgio De Luca, di Alvise Falzone in redazione, di Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.